Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Staremo insieme in diretta per tutto il mese di luglio, tutti i sabati per tutto il mese di luglio. Niente vacanze per il sabato del villaggio. Ma ora scopriamo i temi della prima ora che passeremo insieme. Il filo conduttore di oggi? La passione, le passioni. L'appuntamento con il gastronauta per parlare di punto G. Niente di scandaloso, non vi spiego ancora di cosa si tratta, dovete restare con noi. I consigli per le uscite al cinema del fine settimana, perché anche il cinema è per tanti, anche per me, una grande passione, e nonostante sia il primo weekend di luglio c'è qualche uscita interessante. Il nostro Enrico Pagliarini ci parla di una sua grande passione, gli aerei. Sarà in collegamento da un evento molto speciale, ma prima, oggi, la passione di tutti è il calcio. C'è stato il calcio di punizione di Eder dopo un fallo conquistato al limite dell'area da Pelé. Il tiro dell'italo-brasiliano respinto ma non trattenuto da De Gea, si è avventato sul pallone Giaccherini, ancora un rimpallo, Giorgio Chiellini da un metro l'ha buttata dentro e l'Italia è in vantaggio per 1-0. Va bravo Insigne Giaccherini a portare il pallone lontano dalla nostra area, interviene Thiago Motta, cercato da tre spagnoli, ma devia con Insigne, allarghiamo a destra ragazzi, che c'è Matteo Darmian, controllala bene Matteo, scendi con calma, entra in area di rigore, la tocca per Pelé! Tutti e 23 ad abbracciare Antonio Conte, è il momento della festa, dei crampi, delle lacrime, della gioia, dell'impresa. Che Italia ragazzi! Che Italia e che Dario Ricci, che ci ha raccontato Italia-Spagna. Dario, ci sei? Sei pronto per questa sera? Ciao Dario Ricci! Ciao Marta, un saluto da Bordeaux. Beh, insomma, ogni tanto mi scappa la frizione quando si parla della nazionale. Filino di entusiasmo, sì. Un filo di passione. Ma sì, sono le cose belle, il calcio, quello che succede sul campo, su quel prato verde, ci dà piccole gioie che è bello condividere e mi piace condividerle con voi, con gli ascoltatori, insomma. È un argomento leggero di cui si può anche sorridere, ma non sono è detto d'accordo. Che sia per forza così serio, insomma. Dario, allora raccontaci le ultime. Io tanto sento, non so se sono posate o cosa, magari stai pranzando, ti abbiamo disturbato in quale momento no, della no, giornata, no? No, in realtà sì, sono in una brasserie qui di Bordeaux, proprio di fronte alla Fanzone, che è una delle più grandi tra l'altro di questi europei, capace di contenere circa 70.000 spettatori, quindi buona parte di chi, di coloro che non hanno trovato il biglietto per oggi si raduneranno qui in questa Fanzone. Devo dire, il clima è molto sereno, divertente, ci si scambia gli sfottò con i tedeschi, perché come sai bene sono 8 volte che li incontriamo tra europei e mondiali e non ci hanno mai battuto, 4 vittorie nostre e 4 pareggi, inutile dire che sarebbe bello che questa tradizione continuasse. Allora loro ci guardano con la faccia dei campioni del mondo e fanno finta di aver paura dell'Italia, no? E noi gli ricordiamo che nei gewinnen, tu correggimi se sbaglio, ma insomma non vincete mai. Quindi alla fine inevitabilmente anche l'umile cronista si trasforma in tifoso, perché questo è l'azzurro della nazionale, è l'azzurro di tutti. Lo critichiamo giustamente come ci impone la nostra professione, ma questo è l'azzurro della nazionale, è l'azzurro di tutti. Dario, ti chiedo un po' di cronaca. Io so che ieri sera hai assistito alla conferenza stampa dei protagonisti, hai fatto anche una domanda un po' cattivella ad Antonio Conte. Voglio sapere un po' come sono gli umori, come sono le notizie appunto dell'ultimo minuto. Ma guarda, allora, devo dire che le facce sembrano ancora una volta quelle giuste, la faccia di Antonio Conte, il volto del capitano Gigi Buffon trasmettevano la voglia di starci in questo europeo, la voglia di arrivare al 10 luglio, il giorno della finale, e quindi la voglia c'è, non sembra un gruppo appagato dalla pur bellissima impresa sulla Spagna, che potrebbe comunque riscattare, no, già il cammino di una squadra che era partita dallo scetticismo generale. Di fronte è chiaro c'è la Germania, quindi la squadra campione del mondo, tedeschi che questa volta non sembrano neanche sottovalutarci, ai noi, per cui ci prendono tremendamente sul serio visto le elezioni del passato. Quello che abbiamo chiesto a Conte è stato semplicemente il fatto che probabilmente questa è una nazionale di cui i nervi sono sicuramente sovraeccitati, perché deve colmare un gap tecnico con l'aspetto emotivo, no? E abbiamo chiesto se in qualche modo questo poteva aver un po' bollito la testa dei giocatori. Ma in realtà il CT ha escluso questo dubbio, anche perché lui è un uomo di campo che dà anche molte soluzioni di tattica ai giocatori, quindi non è solamente un allenatore che ti dice bravo, forza, dai, coraggio, che alla fine non è la risposta che basta, è un allenatore che dà anche le risposte tattiche, quindi questo trasferisce sicurezza ai giocatori. Ecco, di fatto però dall'altra parte, ai noi, abbiamo i più forti al mondo, quindi insomma. Allora, intanto ricordo i numeri per contattarci: 349-238-6666 per sms e whatsapp, ma c'è anche il mio account di twitter @MartaCagnola, #CancellettoISDV. Ma siccome questo è anche il momento del tifo, Dario, tu e i tuoi amici che abbiamo già presentato l'altra volta, i tuoi compagni di avventura agli europei, avete incontrato un tifoso d'eccezione che ci fa piacere ascoltare insieme al Sabato del Villaggio, perché appunto siamo tutti tifosi lì a Casa Azzurri. Avete incontrato un tifoso d'eccezione, ecco come segue, come tifa, come affronta questa avventura degli europei NEC. Frittatona di cipolla, peroni ghiacciata e alla Fantozzi, diciamo. Beh, quando gioca l'Italia si ferma chiunque, anche i più ignoranti in materia come il sottoscritto, cioè diventi l'italiano medio e non voglio sapere niente, spegni tutto, ci siamo solo noi, io e l'Italia, così. Ma mi ricordo ancora quando abbiamo vinto il mondiale, che siamo andati tutti in centro a Sassuolo, quindi ciao. Mi hanno visto i sassolesi, ma ho cominciato a tirare le secchiate d'acqua, ma perché lì è in segno d'affetto, cioè tutti si tiravano, però in quel caso lì il centro, il fulcro, è il sottoscritto. Bellissimo. Senti, parafrasando una canzone che hai riportato in auge, Se telefonando, sì. Se potessi telefonare a Conte, cosa gli diresti adesso, in questo momento? Ma guarda, gli direi, sei tranquillo, hai preso un calmante, e se lui mi dovesse dire sì, cazzo, hai sbagliato, devi stare sempre così, deve essere sempre vivo. Che genere musicale è questa nazionale, secondo te, se dovessi scegliere una categoria per raccontarla in musica? Dall'ultima partita è sicuramente un pop rock. Perché pop rock? Perché prende le misure, quindi vedi qualcosa che si muove, che quindi non è spento. vedi qualcosa che si muove, poi boom, ti lancia lo schiaffone e quindi c'è il taglio rock che arriva, poi si ritrae, si addolcisce per un attimo, ma non è sdolcinato, rimane vivo, rimane sentito. Uno di questi giorni andiamo via, penseranno che ci siamo persi, che la colpa è mia. E tu metti un bel vestito, quello giusto, quello che ti toglierei. Se chiudi gli occhi, giuro che ti porto dove vuoi. Ci siamo solamente noi. Beh, insomma, molto carina questa visione di Neck, così fantozziano, con familiare di peroni gelata, frittatona di cipolle e si continuava con Rutto Libero, e vorrei ricordarlo anche a Neck. Dario Ricci, sempre in collegamento con noi dalla Francia. Cosa dobbiamo sapere dei tedeschi? Cosa dobbiamo tenere d'occhio questa sera? Sono talmente forti che bisogna guardare tutto. Adesso dai, facciamo un minutino di tecnico-tattica. Occhio a Toni Kroos, che è il centrocampista per eccellenza, fresco della sua seconda vittoria della Champions League proprio con la maglia del Real Madrid. Pensa che è il giocatore che ha fatto più passaggi corretti in tutto l'Europeo. Il 95% dei suoi passaggi sono andati a buon fine, quindi direi che piedi veramente straordinari. E poi speriamo che invece in fase difensiva, dove magari hanno giocatori di un livello leggermente, ma solo leggermente più basso, qualcosa ci concedano. Quello che può sorprendere della nostra squadra è che comunque, come già è successo con la Spagna, sembriamo in grado di poter far male anche nel gioco offensivo. Quello contro la Spagna non è stato un successo all'italiana, no Marta? Non è che abbiamo fatto le trincee, le barricate, no, abbiamo trovato il golletto. Abbiamo fatto proprio una bella partita. Ecco, sarebbe auspicabile rifar la stessa contro i tedeschi, sperando che basti. Allora, i messaggi al 349-238-6666. C'è un ascoltatore che scrive: Inghilterra maglia bianca eliminata, Spagna maglia bianca eliminata, Belgio maglia bianca eliminata. Stasera con cosa gioca la Germania? Non so, io sono troppo scaramantica per chiederlo a Dario, non voglio sapere. Direi che della sfumatura. Diciamo, facciamo nostro l'auspicio dell'ascoltatore, ecco. Perché la partita sulla carta è Germania-Italia, quindi la Germania giocherà con la sua prima maglia. Ecco, sperando quindi che sia dovrebbe essere sufficientemente bianca. Carlo da Latina: di calcio non ci capisco un universo di nulla, ma con tutti i convocati imparo molto e capisco. Grazie Ricci e Pardo, eccetera. E per stasera scaramantico silenzio. Sì, infatti devo dire che tutti i convocati le nostre voci dello sport, Dario Ricci in prima fila, ci aiutano proprio anche a capire, insomma, a orientarci bene. Dario, tu questa sera come la seguirai? Tribuna stampa, come funziona per gli inviati? Sì, funziona così, c'è la tribuna stampa. Qua devo dire, i francesi sono fatti prendere la mano negli stadi, soprattutto quelli nuovi ristrutturati, molto bello, l'Atlantique di Bordeaux, distanze da boulevard veramente, per cui anche i nostri spazi vengono moltiplicati. E sì, quindi tribuna stampa, confesso di avere una maglietta azzurra, perché comunque mi sento partecipe delle sorti della nostra squadra, e quindi ho risposto nel mio piccolo all'invito del CT, mantenendo poi la libertà di criticare quelle che certo sono le prestazioni sul campo, però insomma mi fa piacere aderire a questa chiamata alle armi calcistiche, per carità, perché in fondo il calcio, come diceva qualcuno di molto più bravo di me, è la cosa più importante fra le cose non importanti, quindi ecco, ci piace approcciarlo così. Comunque quella che andrà in scena stasera sarà un nuovo capitolo di questa saga eterna tra Italia e Germania. Non aspettiamoci regali da loro, per batterli dovremo essere più bravi anche questa volta. In passato lo siamo stati, cara Marta, speriamo di esserlo pure questa volta. Dai, poi mi piace questa leggerezza, comunque va, la voglia di godersela. Ma mi è piaciuta anche questa intervista, molto carina, molto lieve, molto divertente a Neck, anche se qualcuno critica: ah, ma che domande, cosa diresti a Conte? Ma sì, dai, un po' di gioia, perché con tutte le cose brutte che ci sono, sì, almeno guarda, tifiamo un po' per l'Italia, ci guardiamo un po' di calcio. hai toccato il tasto giusto ed è un po' lo spirito con cui anche noi di Radio 24, te, tutti i convocati vogliamo raccontare il calcio e lo sport, insomma. Cioè, prendiamolo come un momento, pur non chiudendo gli occhi di fronte alle cose importanti che cadono, che in negative che capitano anche nello sport, ma anche per approfittarne, per vivere dei momenti belli nello stare insieme, no? Ecco, un invito che posso fare, ma che sicuramente condividerai ai nostri ascoltatori: ripensate alle vostre Italia-Germania e ripensate ai momenti in come le avete vissute, no? Gli abbracci, quel sapore di birra e di pizza, gli addii, i momenti della vostra vita che si sono intrecciati i con fidanzatini tedeschi delle vacanze, ma questo è un capitolo importantissimo. I fidanzatini e le fidanzatine e le tedesche che appunto che scendono in riviera, insomma, dai. E quindi ecco, legate questa partita di stasera anche a quei bellissimi ricordi che hanno segnato la vostra vita. Vero. E capite che Italia-Germania non è solo una partita di calcio, è un pezzetto della nostra storia. Ma guarda, se potessero parlare questi microfoni, ma non diranno nulla. Dario, fammi una cortesia, fatti un selfie con la maglia azzurra e mandamelo, così poi lo retweeto, dai. Grazie. Perfetto. Grazie a Dario Ricci, buon forza lavoro, azzurri, eh? Forza azzurri, tanto ti risentiremo questa sera in tutte le edizioni del giornale radio. Grazie a Dario Ricci. Noi ci ritroviamo tra pochissimo perché abbiamo ancora tante passioni, tra poco la passione per il bere bene. A tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Che parliamo di vino, che è una delle grandi passioni per tanti nella vita. D'estate però abbiamo bisogno di dritte particolari e ce le può dare solo il nostro gastronauta. Buongiorno Davide Paolini, ciao Davide. Ciao Marta, ciao. Allora, abbiamo detto bene, vino d'estate, sì. È difficile, devi darci delle dritte. Ma sai, se uno pensa a vino d'estate, immediatamente cosa pensa? Al bianco, agli spumanti? E no, io invece vado in un'altra direzione, vado contro, ma non per spirito, per fare il bastian contrario, ma proprio perché io amo d'estate bere il vino rosso. E l'abbiamo sentito, allora abbiamo azzeccato la canzone, allora, Red Wine. Sì. Io bevo, mi piace molto bere il vino rosso, è evidente che vino rosso d'estate bisogna che sia, diciamo, molto particolare e bevuto in condizioni particolari. Allora partiamo un po' dai luoghi comuni. Di solito mi è capitato recentemente di girare una bottiglia e di leggere la temperatura di servizio consigliata è di 22 gradi. E io sono rimasto allibito, perché 22 gradi credo che si bevano in montagna d'inverno e diventa un vin brûlé. Come si fa a bere un vino a 22 gradi d'estate? Qualcuno può dire, vabbè, non si mangia la carne. No, non è vero, si mangiano anche dei piatti che vanno benissimo col vino rosso, e li vedremo, ma ci sono anche dei piatti estivi che sono a base di carne. C'è per così dire, un luogo comune: la temperatura ambiente. Cos'è la temperatura ambiente? La temperatura ambiente è quella che si legge ogni volta che si gira la controetichetta, si vede in una bottiglia. Ma la temperatura ambiente è quella di un tempo. Molte etichette sono 50 anni che si ripetono, quando la temperatura ambiente magari nelle case di campagna era 18-16 gradi. Oggi in qualsiasi appartamento siamo tra i 21-22 gradi. Cioè, bere un vino a quel livello è sicuramente un omicidio. Un omicidio perché si distrugge quel vino. Ci sono tra l'altro molti vini rossi che sono ancora meglio bevuti a 16 gradi, 15-16 gradi. E ora io ve ne darò una serie, perché sono vini che vanno bevuti d'estate, chi continua ad amare il vino rosso. Allora, il Lagrein, per esempio, uh-huh. Il Teroldego, la Schiava, il Bardolino, il Valdostano Fumin. Ma anche ultimamente c'è stata una campagna, io non voglio fare il nome perché sennò, vabbè, faccio troppa pubblicità. C'è un noto consorzio toscano che ha lanciato una campagna che dice l'estate calda è il nome del vino, è fresco, servito a 16 gradi. È un vino rosso, ma questa campagna, come posso dire, conforta tutti quelli come il sottoscritto che da sempre dicono che il vino rosso va bevuto a queste temperature basse. Perché d'estate? Perché c'è anche il discorso della temperatura esterna che favorisce il bere i vini a temperatura bassa. Ma io lo bevo anche d'inverno, a queste temperature, perché nelle cantine francesi, nelle grandi cantine francesi, anche i gradi vini di Borgogna si bevono a 16 gradi, per non parlare poi anche di quelli del Bordeaux, perché anche a Bordeaux, nelle zone di Bordeaux, il vino non si beve a 20-22 gradi, come si dice in molti vini, girando l'etichetta in Italia. Certo. Emerge molto meglio il vino bevuto in questa maniera. Poi gli accostamenti. Chi lo dice che il pesce non va accostato con il vino rosso? Perché di solito si fa questa formula che io chiamo una formula aritmetica. Vino bianco uguale pesce, vino rosso uguale carne. Non è assolutamente così, perché ci sono delle carni, ad esempio carni bianche, che assolutamente si possono bere con degli ottimi vini bianchi molto strutturati. Ad esempio? Può essere uno Chardonnay in barrique, per esempio. A questo punto diventa un vino strutturato, quindi, come dico io, dalle spalle larghe, e allora va bevuto a temperature molto, molto più alte. Oppure ci sono tanti altri vini che sono passati nel legno, che cominciano ad avere una struttura molto alta, che si possono mangiare, bere col coniglio, col piccione e con altre cose. Addirittura io ricordo un accostamento straordinario fatto da Pinchiori a Firenze, che combinava un piccione con i fagioli con un vino da dessert, quindi un vino passito della Valle d'Aosta. E qualcuno, mi ricordo, che allora diceva: è una follia. Assolutamente, in bocca era perfetto. Torniamo anche a un altro tipo di discorso, che è questo. Io credo che ognuno di noi debba bere quello che in quel momento gli piace. E allora, anche se è d'estate su una bellissima terrazza, magari con la brezza marina, vicino a una bella signora o signorina, o un bel signore o signorino, e ha voglia di bersi un vino molto strutturato, come può essere un Brunello di Montalcino o un Barolo, mentre sta mangiando un caciucco, perché non farlo? Perché non farlo? Magari si fa servire la temperatura di quei prodotti lì, non se la fa portare a 15 gradi, ma a 16 gradi si possono assolutamente bere. Certo che più si cala con la temperatura sui vini rossi, e più il vino diventa astringente, un po' più astringente. Però devo dire che forse c'è un po' di paura di sbagliare, e quindi magari si va sugli abbinamenti scontati perché si va sul sicuro, ecco. Allora qui ti dico, no, dirò ai nostri radioascoltatori e a te una mia teoria, che il punto G, il punto del gastronauta. Cos'è il punto G? Il punto del gastronauta è quel momento in cui tu raggiungi il piacere, magari con un qualcosa di recondito che tu non l'hai mai raggiunto, con degli accostamenti che non hai mai fatto. Allora io credo che per sempre bisogna cercare di raggiungere il punto C, provando e riprovando, provando il Barolo non solo col tartufo, magari provandolo anche con un caciucco, può funzionare o non può funzionare, però bisogna provare, non bisogna dire no, così non mi piace. E sicuramente quando uno va al ristorante e chiede un vino rosso e dice al cameriere o al sommelier: mi porti il sacchello di ghiaccio, e allora lì vedi una faccia che non è la faccia che ti dice: beh, questo è un intenditore, sicuramente sussurrerà all'orecchio del collega: ma chi è questo qua, da dove viene, guarda cosa fa. Ma fatelo, fregatevene, perché il punto G è il punto migliore quando si è a tavola, è quello che appunto si raggiunge un qualcosa che non si è mai raggiunto. e allora torniamo all'estate, torniamo al pesce e torniamo agli accostamenti di pesce. Io credo che ci siano tantissimi piatti di pesce che non solo quelli che si dice che sono conditi col pomodoro, come possono essere tante preparazioni appunto che hanno del rosso dentro al tegame di pesce, ma si può provare anche con altre cose. Il pino nero è, secondo me, è veramente un sacrilegio servirlo caldo. Il pino nero raggiunge il massimo quando è intorno ai 15-16 gradi. E secondo me ci sono tantissimi pesci che tengono questo, diciamo, sono perfetti con questa temperatura. Quindi tenete ben presente il pino nero, perché sicuramente il pino nero è uno dei grandi vini rossi dell'estate. Come dicevo, ci sono anche dei vini, ci sono anche dei piatti che possono essere combinati con il vino bianco. Attenzione, io non è che ora sto dicendo d'estate non bevete assolutamente vini bianchi, per carità, d'estate sono i vini con le bollicine che sicuramente di sera sono fantastici, specialmente quando si è in compagnia, si è in vacanza, e credo che sia il momento migliore per bere, per godersi la vita, e quindi ok per le bollicine, ma ci sono anche dei vini bianchi straordinari. Quindi, senti, citaci comunque qualche bollicina che consiglieresti. Ma dunque, le bollicine ci sono in Italia, ci sono Franciacorta e Trentino Doc, Trento Doc, sono le due aree, se vogliamo, consigliate. Anche l'estate. Quindi, vanno benissimo. E l'estate vanno benissimo, come va benissimo anche ormai quello che è diventato un po' un fenomeno mondiale, che è il Prosecco. Però diciamo che i vini di Franciacorta e Trento Doc sono sicuramente molto più strutturati, e sicuramente sono vini molto, molto più importanti. Poi le bollicine ormai sono sparse un po' in tutta Italia. Ad esempio in Sicilia c'è Renato De Bartoli che fa uno spumante con un vino bianco che si chiama Grillo, che è un vino, diciamo, molto, molto estivo. Sicuramente è uno dei vini più diffusi in Sicilia d'estate, quindi un vino che sicuramente va tutto pesca. Ma arriviamo alle ostriche. Ecco, arriviamo alle ostriche, perché io questo l'ho già detto una volta, però lo ridico. Anni fa io mi ero inventato questo scambio delle coppie. Io c'ero una volta che l'hai fatto, eh? Adesso, ecco, adesso allora, qualche ascoltatore dirà: oddio, cosa stanno confessando? No, no, ecco, no, state ascoltare. Cari radioascoltatori, non disperate, non sto parlando di degustazione a luci rosse, ma degustazioni a luce normale. E allora, cos'è lo scambio delle coppie? Era champagne con la mortadella e ostriche con il lambrusco. E molti hanno storto la bocca dicendo: ma come, questo qua? E c'è stato anche un sommelier, che allora era campione d'Italia dei sommelier, che criticava, gli ho detto: va bene, allora un giorno vieni a casa mia e facciamo 4-5 esperimenti e poi mi dici. Bene, fece questi esperimenti, non disse nulla, non contestò, ma non disse neppure avevi ragione, lasciò tutto così. Però poi che so che questo signore faceva questi tipi di accostamento. Quindi il lambrusco d'estate, parlavamo prima di bollicine, il lambrusco d'estate è un vino straordinario, perché è un vino rosso, ma appunto può essere servito freddo, anche sotto i 14 gradi, ed è un vino che va giù molto, molto beverino. Ora, poi che ci sono dei lambruschi in metodo classico, come Cantina della Volta, sicuramente è un, diciamo, per l'estate lo consiglio a 360 gradi, ma con le ostriche consiglio anche il Pinot Nero, perché secondo me è un altro accostamento straordinario. Più che lambrusco, forse consiglio Grasparossa, lambrusco Grasparossa, ecco, secondo me è la soluzione migliore per bere d'estate e mangiarsi sei ostriche o anche dei altri crostacei. Secondo me può andare benissimo. Caro Davide, grazie per questo excursus sui vini d'estate, mi è piaciuto molto, so che molti hanno preso appunti anche un po' per studiare questa storia del punto G, che ancora una volta non è a luci rosse, di rosso qua c'era solo il vino. Grazie Davide, al prossimo sabato. Ciao, alla prossima, ciao. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il sabato del villaggio. E al sabato del villaggio è il momento di parlare di tecnologia, ma siccome stiamo parlando di passioni e ci stiamo per collegare con il nostro Enrico Pagliarini, voglio introdurlo così. Baby, you're the touching girl. per i film americani, la passione per un po' di azione, la passione per gli aeroplani, perché questa era una dei pezzi fondamentali della colonna sonora di Top Gun. Chissà se sente un po' Top Gun anche il nostro Enrico Pagliarini. Ciao Enrico! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, non so se sentite, sì, sentiamo sicuramente quello che c'è in sottofondo. Io sono ad Arona, una bellissima località sul Lago Maggiore in Piemonte, vicino comunque a Milano, un'ora di treno da Milano. Sono venuto perché c'è un air show, ci sono tantissime manifestazioni di questo genere in tutta Italia, questa però è speciale perché è una delle tappe degli spettacoli, delle frecce tricolori che hanno iniziato l'esibizione pochi minuti fa. E che cosa c'è di particolare? Beh, perché attorno al mondo del volo, degli aeroplani, c'è una passione incredibile. Allora, oggi sono qui attorno alle acque del Lago Maggiore migliaia di persone. Non abbiamo un dato ufficiale, anche perché... Ecco, adesso sentiamo uno dei... Beh, meraviglioso, è meraviglioso. Allora, dicevo, ci sono migliaia di persone, c'è chi dice 50.000, c'è chi dice 80.000, insomma, difficile da sapere. Comunque un'atmosfera molto bella, è una bella giornata, anche se ci sono un po' di nuvole all'orizzonte, ma ci hanno detto che le frecce tricolori sfrecceranno comunque, anche se arriverà il brutto tempo. Ma direi che lo spettacolo dura 25 minuti, quindi è iniziato da pochissimi minuti, con l'inno italiano, l'inno nazionale, e stanno sfrecciando sulle acque del lago. Un'atmosfera veramente bellissima, e devo dire che la passione qui è proprio di casa, è una passione che è accompagnata anche dall'affetto di tantissime persone. Allora, vi vorrei fare sentire una breve intervista che io ho fatto con Jan Slangen, che è il comandante delle frecce tricolore. Adesso vi faccio sentire anche... È favoloso, siamo lì con te, Enrico. Una delle frecce. Allora, non so se sentite anche gli applausi delle persone. Io sono in una posizione abbastanza privilegiata perché sono proprio di fianco agli speaker dell'aeronautica, gli speaker delle frecce tricolore. Dicevo, vi faccio sentire un'intervista che ho realizzato poco fa con il capitano delle frecce, che si trova qui a terra perché il capitano comanda tutte le operazioni di volo da terra, quindi proprio da bordo lago. Però prima di farvela sentire, a questo punto vi farei sentire invece un passaggio ulteriore con il tricolore delle frecce. Eccolo qua, sentiamolo insieme. Meraviglioso, meraviglioso. Solo noi possiamo mostrare le frecce tricolori alla radio, Enrico. Beh, solo come noi. Si vedono alla radio, non si vedono da nessun'altra parte. Ma infatti, era un'evoluzione bellissima. Bellissima, bellissima. Adesso sono impicchiata. Accidenti, un po' anche il collegamento con Enrico era impicchiata, vediamo se ti sentiamo ancora. Sentiamo aerei, sentiamo aerei, allora, eccoci. Sentiamo adesso la voce di Jan Slangen, che sta comandando proprio qui a fianco a me le frecce da terra. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Beh, la passione è il principio cardine del nostro lavoro, è quello che ci ha spinto ad avvicinarsi a questo mondo, un mondo tutto da scoprire, da provare, ecco, difficilmente spiegabile a parole. Però oltre a questo c'è anche la passione di servire il nostro paese, perché noi abbiamo sì scelto di volare, ma di farlo rappresentando la professionalità delle forze armate e soprattutto i colori della bandiera italiana. La passione vi contorna, perché voi fate una dozzina di manifestazioni all'anno ed è sempre così l'atmosfera, ci sono migliaia di persone che vi seguono. Le frecce tricolori per 5 mesi all'anno, quindi a partire dal mese di maggio, quest'anno siamo partiti il 24 aprile fino a fine settembre, ogni fine settimana sono in una località diversa, anche in tante località all'estero, quindi è un lavoro che ci vede con ritmi diversi, e devo dire che effettivamente in ogni località veniamo accolti sicuramente con un grandissimo calore, e questo accade anche all'estero, non soltanto dai tanti italiani che si trovano a vivere dall'estero, ma dai tanti appassionati del bellissimo mondo aeronautico che riconoscono nella nostra pattuglia una delle pattuglie più prestigiose al mondo. Senti, ad un certo punto però la passione, tu ce l'hai accennato prima, va messa un po' da parte, anche perché questa per voi è una professione molto seria, molto impegnativa. È una professione che richiede un lavoro quotidiano, un duro addestramento per arrivare a essere anzitutto un pilota dell'aeronautica militare, un pilota ad alte prestazioni. Dopodiché c'è un passaggio ulteriore quando si entra a far parte di questa squadra, perché comunque rappresenta una parentesi limitata nel tempo, e bisogna, se vogliamo, rimparare qualcos'altro. Quindi, nonostante giovani da un punto di vista anagrafico, dobbiamo imparare a volare in formazione e soprattutto a vivere in formazione, perché alla fine il gruppo e l'essere squadra parte da terra e non soltanto in volo. Ecco, a proposito della terra, forse non tutti sanno, il capitano delle Frecce Tricolori sta a terra. Sì, colui che coordina tutta la squadra, composta da più di 100 persone, si trova a terra, ovviamente in collegamento radio con il resto dei 10 piloti per fornire quelle che sono alcune indicazioni, però la maggior parte del lavoro viene fatto dopo il volo, una volta che si rientra in sede. Con il nostro Top Gun Enrico Pagliarini, che ci ha regalato questa intervista. Beh, davvero interessante. Enrico, ci sei ancora in mezzo? Sentiamo sì, le frecce sì, tricolori. Sono qui. Ma è bella questa cosa delle frecce tricolori, così praticamente che sentiamo davvero al telefono. Chi sono gli appassionati che hai attorno a te? Curiosi? Allora, direi molte famiglie, è anche una giornata che si presta anche il luogo, naturalmente il Lago Maggiore. C'è attorno allo spettacolo delle Frecce Tricolori un'esibizione, è un air show, quindi uno spettacolo di aerei e di elicotteri, quindi prima e dopo le frecce si vedono anche altri velivoli, altri oggetti volanti. È sicuramente una bella festa e ce ne sono parecchie in tutta Italia, in tutto il mondo. Sentiamo le frecce, aspetta. No, stanno andando lontano, stanno preparandosi per uno degli ultimi passaggi, probabilmente. Dicevo, non so se avete colto che davvero Enrico Pagliarini è appassionato e si sta divertendo come un bambino. Non è che stiamo facendo finta, è proprio una delle sue grandi passioni, sì, Enrico. Sì, divertentissimo, no, bellissimo, bellissimo. Allora, devo dire che purtroppo io non ho tantissimo tempo, perché altrimenti sarei molto più spesso a eventi del genere, a fiere internazionali, anche perché questo tipo di giocattolo si sposa molto con la tecnologia. Certo. Sicuramente il volo ha beneficiato di avanzamenti tecnologici negli ultimi anni veramente incredibili. Tra le passioni che contraddistinguono gli appassionati di volo, ce n'è una un po' particolare, mm-hmm. E allora la svegliamo, non so quanto sono famosi gli spotters. Ah, raccontami subito chi sono gli spotters. Sì. Allora, è molto molto molto bello, però aspetta un attimo, perché qua ci sono le frecce che stanno facendo di nuovo il tricoloro, però sono lontane, quindi il suono non si sente. Allora, vi dico e vi racconto che cosa sono e che cosa fanno gli spotters, perché visto che oggi al Sabato del Villaggio parliamo di passioni, queste persone uniscono la passione per la fotografia con la passione per il volo. Sono persone che dedicano buona parte del loro tempo libero alle piste degli aeroporti, vanno in coda o in testa alle piste degli aeroporti a fare fotografie agli aeroplani. Alcuni potrebbero dire che è una perversione, no, è una passione. Beh, io da piccola andavo sempre con mio papà, che mi portava a vedere gli aerei vicino alle reti che dividono, insomma, le piste degli aeroporti dalla strada. Però questa mi sembra una cosa, tanto passano ancora le frecce. Questa mi sembra una cosa più complessa, più organizzata. Noi ti dico, Enrico, che stiamo cercando di metterci in contatto con una spotter. Abbiamo qualche problema con il collegamento telefonico, perché starà appunto a caccia di qualche avvistamento di aereo. Dicevo, non è solo andare a vedere... Noi, quindi ci sono... Ah, certo, ci sono talmente tante persone che i telefonini fanno un po' le bizze. Ecco, a volte è una cosa insomma organizzata, sono dei gruppi di appassionati. Avevamo già scoperto gli appassionati di meteo, adesso scopriamo gli appassionati di avvistamenti di aerei. Certamente ci sono tantissime associazioni, gruppi spontanei, e poi da quando esiste internet questa passione è esplosa su internet, perché queste persone fanno fotografie bellissime. Certo, i soggetti sono gli aeroplani, non è che fotografino cose diverse, sì, anche gli elicotteri, ma prevalentemente gli aeroplani, e queste fotografie poi prendono il via della rete e le possiamo vedere, quindi anche chi non va poi in pista può vedere queste fotografie su internet. Ci sono tantissimi siti internet e la parola chiave è spotters, perché così si chiamano queste persone, tantissimi siti internet. Ovviamente negli aeroporti più grandi, negli aeroporti maggiori, questi gruppi sono molto più frequentati, sono veramente tantissimi, e queste fotografie sono migliaia. Allora io intanto dico che questi applausi che sentite in sottofondo non sono effetti speciali, non sono musiche che abbiamo aggiunto, ma è proprio perché, per chi si fosse messo in collegamento col Sabato del Villaggio solo adesso, Enrico si trova all'Air Show di Arona e quelle che sentite passare sono davvero le frecce tricolori. Enrico, sono le 15:45, ci aggiorniamo un attimo sulla situazione del traffico, continuiamo a cercare di metterci in contatto con una spotter per capire cosa fanno questi avvistatori di aerei. Ci ritroviamo tra qualche istante ancora con il Sabato del Villaggio dopo il traffico. Il Sabato del Villaggio. C'è il nostro Cristian Goldoni che dietro al banco della regia è lì con il telefono che cerca disperatamente di mettersi in contatto con una spotter che avevamo contattato, ma appunto è alle prese con degli aerei, quindi non è facile il collegamento telefonico. Speriamo di riuscirci insomma in questo minuto, ma non so. Intanto abbiamo sempre il nostro Enrico Pagliarini. Ah, non abbiamo nemmeno Enrico, accidenti, ci è cascato anche il collegamento con Enrico Pagliarini, insomma è la disperazione. Allora, facciamo una cosa, io comincerei a parlare di cinema. Parliamo di cinema, parliamo delle anticipazioni, delle novità al cinema questo fine settimana, e poi vediamo se riusciamo a tornare a parlare di aerei. Ci proviamo? Allora andiamo con il cinema. Bambino. Hai bisogno di un bambino? Ti ricordi di Guy Childers? Assaggiane uno. Ha consentito a fare una donazione così che possa fare l'inseminazione. È il miglior cetriolo che abbia mai assaggiato. Quanto vuoi essere coinvolto in tutto questo? Io ti suggerisco di non esserlo. Forse esiste una possibilità che possiate tornare insieme. Ci stai manipolando tutti per giungere a un qualche assurdo lieto fine. Via, via. Via. Vattene da casa mia, via. Ok, me ne vado. Ti prego, vattene. Una stagione in cui le uscite al cinema cominciano a calare, lo sappiamo, in Italia l'estate è così, ma ancora qualche film gradevole, divertente, qualche chicca possiamo trovarla. Chiediamo tutti i consigli al nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco! Ciao, ciao Marta, ciao! Allora, partiamo con questo piano di Maggie, mi piace già il sottotitolo, A cosa servono gli uomini? Può essere una buona scelta per chi volesse andare al cinema questo fine settimana? È un interrogativo importante, quello che ci pone soprattutto. Noi maschietti, la protagonista Greta Gerwig di questo film, Il piano di Maggie, che è una commedia americana, newyorkese, proprio molto newyorkese, su una donna tutta calcolatrice, tutta precisina, che sembra non avere spazi nella sua vita per l'imprevisto e che decide di mettere dentro questo piano anche un figlio, e quindi inseminazione artificiale, donatore, eccetera eccetera. Ma siccome l'amore arriva quando non te l'aspetti, lei si fa travolgere a un certo punto da una novità che manda all'aria questi piani così precisi, così esatti, e la costringe a fare i conti col fatto che i figli si possono fare ancora anche all'antica, diciamo così, con un uomo. Ecco, eh sì, a che cosa servono gli uomini del titolo. Greta Gerwig è un'attrice che ha trovato sicuramente un suo ruolo, forse in maniera anche un po' troppo precisa, nel senso che è un volto perfetto per il cinema indipendente o finto indipendente americano, la classica ragazza di talento ma forse un po' inespressa, che fatica ma ha sempre il colpo di genio. Ecco, questo è un po' il personaggio di Greta Gerwig, è perfetto in questo film, nel quale tra l'altro ci sono sono anche due nomi importanti come quelli di Ethan Hawke e Julian Moore, quindi anche in questo caso si va un po' oltre la storia in sé, ma si cerca di dare un cast che sia appetitoso per il pubblico. È una commedia molto divertente, molto brillante, si sorride trattando comunque un tema che è un tema d'attualità, di stretta attualità, quindi direi che forse questa è la proposta un po' più ecumenica di questa settimana. Ultimamente ci sono molti film che si svolgono in luoghi circoscritti o in tempi molto circoscritti, quasi aristotelici. Tokyo Love Hotel è un po' uno di questi film. Cos'è? Perché dal titolo e dalla locandina uno può già immaginare di cosa si tratta. Assolutamente. O forse no. Chissà, ma chi lo sa, sai, Tokyo Love Hotel, uno pensa chiaramente all'amore, chiaramente all'Oriente, il film è giapponese, si va un po' oltre se vogliamo, ma lo si fa con grande delicatezza. Tokyo Love Hotel è la storia di un direttore d'albergo, di un giovane direttore d'albergo, insomma, bettolina, ecco, voglio dire, un albergo un po' così, frequentato o qualcuno direbbe mal frequentato da gente di tutti i generi, soprattutto che da lì, da quel luogo vuole una cosa, consumare sesso. Sono pornostar, sono prostitute più o meno professioniste, ma sono anche sul fronte maschile papponi in erba, insomma, è un posto nel quale succede tu amanti in fuga. C'è un po' di tutto e chiaramente gli occhi di questo giovane direttore sono gli occhi dello spettatore, sono gli occhi di colui che guarda, un po' che cataloga, un po' che classifica, un po' che giudica forse anche, e questi personaggi che vanno e che vengono e che poi forse ti costringono anche a interrogarti, no? Sulla sessualità in generale, eccetera. È un film che però, come dicevo prima, ha una matrice, ha una forza che è la grande delicatezza dello sguardo e del tocco del regista, e quindi riesce, nonostante le abbondantissime scene erotiche eccetera eccetera, riesce sempre a essere delicato e a spostare più sulla riflessione che su quello che vedi con gli occhi il suo baricentro. Vorrei concludere con un'anticipazione della Rosa Purpurea, perché ovviamente parlerai di Bud Spencer. Assolutamente, Bud ci ha lasciato qualche giorno dopo la nostra ultima puntata andata in onda, e quindi abbiamo voluto riprendere un po' le fila di una settimana particolare, nel quale intanto si è capito quanto amore c'era dal pubblico non solo italiano, ma anche da chi non t'aspetti. Agli europei di calcio ci sono state decine di tweet su Bud Spencer, dai giocatori della Germania, per dire, lui era molto popolare in Germania. Ti fa capire quanto questa icona del cinema burbero e popolare fosse entrata sotto pelle proprio a più di una generazione, quanto il suo volto comunque pulito, quanto il suo essere atleta avesse fatto breccia nel cuore della gente, e tutto questo si è sublimato in questo funerale bellissimo sulle note di Altrimenti ci arrabbiamo, un funerale che ha saputo cogliere lo spirito di Bud Spencer. Ecco, noi vogliamo ripartire da lì, lo facciamo con Lorenzo De Luca, che è stato suo sceneggiatore, suo amico, suo scrittore, potremmo dire, perché ci ha scritto 4 libri insieme, insomma uno che lo conosceva veramente bene fino alla fine, per ripercorrere la carriera di Bud Spencer e andare a capire cosa c'era dietro quella maschera, quel personaggio che piaceva tanto a grandi, bambini di tutte le età e di tutte le generazioni, di tutte le latitudini, perché sicuramente Bud Spencer era un personaggio ancora tutto da scoprire. Grazie Franco, l'appuntamento quindi dopo le 18 con la Rosa Purpurea. Grazie. Ciao Marta. Beh, rimaniamo sempre in tema Top Gun. Abbiamo recuperato il collegamento con Enrico Pagliarini. Enrico, allora, la prossima settimana o in uno dei prossimi Sabato del Villaggio riproviamo a contattare gli Spotters. Io intanto segnalo la loro pagina di Facebook, il Malpensa Spotters Group, perché avevano segnalato che ci saremmo collegati con loro. Ci abbiamo provato, c'era un problema di telefoni. Abbiamo provato disperatamente. Torneremo sull'argomento il prossimo o uno dei prossimi appuntamenti con il Sabato del Villaggio. Enrico, cosa ci puoi ancora dire in merito alla passione per gli aerei che appunto ti ha spinto, adesso lo dico, questa mattina ha fatto il turno dell'Alba Radio 24 e poi è corso ad Arona, diciamolo, un vero appassionato. Enrico, cosa possiamo ancora dire di questa passione? Allora, possiamo dire che sicuramente è una passione che unisce grandi e piccoli, perché ci saranno anche dei motivi psicologici probabilmente, però sappiamo tutti che quando siamo bambini siamo appassionati degli aeroplanini, giochiamo con gli aeroplanini, tra l'altro c'è anche un movimento di modellismo attorno agli aeroplani molto molto interessante in tutto il mondo, E poi, almeno lo sto vedendo qui in questa giornata, ci sono tantissimi adulti, tantissime famiglie, quindi anche le mamme che portano i bambini a vedere gli aeroplani. Insomma, è una passione che prosegue per tutta la vita, e devo dire che è anche una passione molto economica, perché se uno si limita a guardare e a vedere, ci sono tantissime manifestazioni, uno può andare vicino agli aeroporti a fare le fotografie, anche solo a vedere gli aeroplani. Poi certo, se uno vuole passare dal giocattolo che costa poche decine di euro invece agli aeroplani, quelli veri, è quella che diventa una passione un po' più esclusiva. Enrico, grazie per averci portato a vedere via radio le frecce tricolori, perché come se le avessimo viste davvero. Ci risentiamo nel prossimo Sabato del Villaggio. Grazie Enrico Pagliarini. Buon pomeriggio, anzi buon sabato del villaggio, ciao ciao. Grazie Enrico, è stata un'avventura questo collegamento, è stato davvero molto bello e molto divertente. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, diamo la linea per tutti gli aggiornamenti al giornale radio delle 16, poi saremo ancora insieme in diretta per un'altra ora del Sabato del Villaggio e per un'altra ora di RadioTube. A tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Il sabato del villaggio. Ed eccoci con la seconda ora del sabato del villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24. Il villaggio è, come sempre, il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per contattarci c'è il mio account di Twitter, @MartaCagnola. Ho appena retweetato il selfie che ho chiesto a Dario Ricci con la maglietta degli azzurri. Non ho chiesto a Enrico Pagliarini di mandarci delle foto dalle frecce tricolori, adesso gli mando WhatsApp, me ne faccio mandare qualcuna, così possiamo twittare anche le foto dell'air show dal quale si è collegato poco fa il nostro Enrico Pagliarini. E voglio salutare Nonna Pina, che al 349-238-6666 ci saluta sempre. Nonna Pina dice: cara Marta, finalmente un Enrico con qualche nota di umanità, a me sembrava molto freddo e mi era diventato antipatico un giorno che aveva detto che a lui degli europei di calcio non gliene fregava niente. No, Enrico Pagliarini a volte è un po' ruvido, ma lo fa così per gioco. Lui è veramente simpatico. E poi avete sentito, di fronte agli aeroplani, un bambino, mi sono divertita molto. E poi sempre i vostri messaggi al 349-238-6666 con il nostro Davide Paolini. A proposito di passioni, avevamo parlato di vini, lui aveva parlato del punto G, che non è quella roba che pensate voi, ma per riscoprire e riascoltare cos'era il punto G di cui ci parlava il nostro Davide Paolini, basta trovare il podcast su radio24.it. X ci scrive: io il punto G gastronomico l'ho trovato con lambrusco fresco e fritto di pesce, spettacolare, sarebbe perfetto questa sera. Ma la passione, appunto, è il nostro filo conduttore di questo sabato pomeriggio. Cosa succederà nella seconda ora? Nel nostro appuntamento con Maria Luisa Pezzali andremo in vacanza in barca e scopriremo che ce lo possiamo permettere tutti. Tutti i libri nel momento, nello spazio di Alessandra Tedesco. Poi c'è anche una mia amica scrittrice che ci viene a trovare per parlarci proprio di passione, Catena Fiorello. Ma partiamo subito con un'altra passione, con la televisione. Viva la Rai, fa crescere strani, viva la Rai. Viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la Rai, con il suo impero dice la Rai, soltanto il vero, viva la Rai. Dimmi da quale parte stai. Ve lo avevamo anticipato nelle scorse puntate, ma ormai chi ci segue lo sa. Questa è la stagione della presentazione dei palinsesti televisivi. Non ci vergogniamo a dire che anche la TV può essere una grande passione. Ha già svelato le carte a metà giugno Discovery, lunedì prossimo tocca a Mediaset, poi la settimana successiva La 7, ma in questi giorni abbiamo scoperto i palinsesti Rai della prossima stagione. Siamo stati dietro le quinte della presentazione, abbiamo incontrato i protagonisti, vediamo cosa ci hanno svelato in anteprima, ad esempio come sarà questa stagione molto impegnativa per Carlo Conti. Mi piace definirle divertente, perché il divertimento è la base di questo mestiere. Se non c'è quello, se non si vive con questa, con la leggerezza, anche con la fortuna di fare questo mestiere, e si pensa che sia un peso o comunque un anno pesante, allora non va bene. È un piano di impegni, ma da vivere con l'entusiasmo che insomma è l'unico modo nel quale mi riesce a lavorare, non potrei fare diversamente. Come l'hai composto il Tetris? Come li hai fatti cadere i blocchetti? Ancora stanno cadendo e stanno dando in posizione. Naturalmente si parte con tale e quale, poi ci sarà la parte autorale dell'eredità, poi ci sarà il Sanremo Giovani, ci sarà il Sanremo vero e proprio, e tutto anche con questo filo conduttore che sarà la radio che dovrò seguire da un punto di vista artistico. Mannaggia a te, sì, perché noi che parliamo dalla concorrenza, tu adesso mi vai a dirigere creativamente Radio Rai, cosa farai? C'è spazio spionaggio industriale. C'è spazio per tutti, perché ormai siamo abituati, non solo le radio, pensa a tutte quelle web, tutto, ormai è un mondo infinito, non è come quando nel 75 ho iniziato a fare radio che conquistare l'FM era una cosa nuova, era tutta da scoprire. Ora il pubblico ha miliardi di soluzioni, ogni proposta va fatta con grande attenzione, come del resto fate voi che avete una mission ben precisa. Ti confesso che noi dalla concorrenza, quando abbiamo sentito la notizia, abbiamo pensato detto A, accidenti, B, però vuol dire che la radio ancora conta tanto. Ma la radio vuol dire ancora molto, la radio è, per quanto mi riguarda, il primo grande amore. E invece Fabio Fazio sarà alle prese con il Rischia Tutto. Si fa sul serio dopo un lancio importante la scorsa stagione, e adesso vediamo come andrà su Rai 3, naturalmente gli ascolti saranno diversi da quelli di Rai 1, ma non è quello il punto. Il punto è di essere capaci di fare un prodotto che incontri ancora emotivamente, speriamo, il gusto del pubblico e che abbiano voglia di giocare a Rischia Tutto ancora con noi, di giocare a Rischia Tutto, come vi dicevo, per però questa volta 8-9 puntate. Il weekend sarà un po' diverso per te però? Non posso andare in onda 3 volte a settimana, insomma, e quindi la domenica sarà una domenica lunga fra le 20 e le 22.30, in cui uniremo insieme Che Tempo Che Fa e Che Fuori Tempo Che Fa. Quindi il tavolo del sabato, che ti piace tanto, sono contento, diventerà protagonista della domenica sera, e quindi insomma rimischiamo tutte le carte. Hai fatto recentemente, rilasciato un'intervista sui talk show, e i palinsesti vanno un po' nell'onda di quello che hai detto tu, quindi più rapidità, più snellezza, il talk show sta cambiando. Sai, io un paio d'anni fa questa cosa è stata colta, e infatti l'anno scorso abbiamo inventato questo tavolo con un nuovo gruppo di lavoro, proprio perché sentivamo l'esigenza di questa leggerezza, di questa... quest'aria che va colta. Insomma, la televisione non è sempre la stessa, ci sono momenti, anni diversi. Adesso mi pare che questo sia, vediamo, è un momento molto interessante per il mercato, per i contenuti e per la società che sta cambiando rapidissimamente. La grande novità di Rai 3: al posto di Ballarò arriva un nuovo talk che verrà condotto da Gianluca Semprini, che arriva da Sky. Ma qual è la sua idea di talk? Qual è la mia idea? Io fino a ieri ero a Sky, quindi ovviamente sono ancora emozionato, sballottolato, però ovviamente in queste settimane abbiamo parlato con Daria Bignardi, è stata lei a cercarmi fortemente, mi è arrivato un giorno un messaggio al telefonino da un numero sconosciuto, per dire che io non conoscevo la Bignardi, e questo ci tengo a dirlo, non ho appartenenze politiche, non appartengo a nessun tipo di salotto, sono stato chiamato perché mi avevano visto su Sky e a torto o ragione avevano valutato il mio lavoro. Come mi immagino il futuro del talk? Sicuramente è una bella sfida quello di tentare di cambiarlo in qualche maniera. Sicuramente se ti dicessi di avere in tasca la verità sul nuovo talk ti direi una bugia. Stiamo studiando alcune soluzioni, stiamo pensando a alcune formule all'interno del talk, abbiamo pensato comunque ad un orario più breve, 1:30, dove però vuol dire condensare i fatti, l'attualità politica, evitando magari a volte il teatrino inutile. Ci riusciremo? Non lo so, questo è un bilancio, penso lo possiamo fare solo alla fine del prossimo anno. Hai parlato di teatrino inutile, eviteremo il teatrino inutile, sono cambiati anche i protagonisti della politica negli anni. Tu in questo periodo hai incontrato tutti i nuovi protagonisti, e quindi anche questo spinge il genere a un cambiamento. Certo, beh, ovviamente quando ti trovi di fronte un avvocato di 37 anni che diventa sindaco di Roma, un manager di 31 che diventa sindaco di Torino, capisci come sia cambiato anche ovviamente l'uomo politico. Magari cambia anche il giornalista, possiamo dire, forse è anche giusto che in questi tempi arrivi alla RAI un giornalista che magari per 20 anni è stato in un'azienda privata e venga chiamato per quello che si è visto in video. Ti ripeto, da qui ad avere successo ce ne vuole anche tantissimo. Molto carino, molto simpatico Gianluca Semprini, e concludiamo questa carrellata sui prossimi palinsesti della RAI in attesa di sentire anche le altre reti nelle prossime settimane con Flavio Insinna, che è in questi giorni protagonista del grande match in attesa della riconferma ad Affari Tuoi. Ma cosa vorrebbe fare Flavio Insinna? Qual è il desiderio di Flavio Insinna? Qualcosa soprattutto che ti fa paura, cioè la sfida del grande match. Io per qualche settimana ho detto no perché mi terrorizzava. Io mi auguro che quando saranno, se ci saranno altre proposte, saranno cose che magari poi accetterai, ma che all'inizio, quando te le propongono, ti facciano paura. E questo ci tiene vivi, la paura, il cuore che accede, il fiato mozzato. Certo, dopo un po' devi ricominciare a respirare, se no è finito. Però quelle sono le cose che per quanto mi riguarda allungano la vita, come dice lo spot, è una carriera. Se uno deve solo ripetere, insomma, già sono tornato, io ho fatto 2 anni a fare i tuoi, sono tornato, questo se ci sarà sarà il quarto dopo il ritorno, insomma, e poi sarà tempo di, credo, di migrare. Mi fa paura, anzitutto sempre mi faccio paura io, nel senso di non essere all'altezza, di non essere in grado. Poi gli autori dicono, quelli bravi che ho incontrato negli anni, dicono che in realtà è la mia forza e la mia fortuna, il fatto di non stimarmi e di avere paura delle cose che mi fanno fare. Mi faceva paura anche coniugare i vari mondi, se raccontiamo, ritorniamo anche a fare i tuoi, dovremo stare in quel tempo ed è un programma registrato. Questo è tutto in diretta, per me è una palestra in più, il brivido che ormai, insomma, come dire, gli autori pare che si divertano a farmi correre, quello di cambiare la scaletta in corsa, e alla fine delle puntate dicono: più te la cambiamo più viene bene il programma. Infatti una volta è passato un tecnico e ha detto: chiudetelo in uno sgabuzzino, non lo fate studiare, lo tirate fuori alle 11:15 di sera e gli fate fare il programma. E loro hanno detto: mi sa che c'è ragione. Il sabato del villaggio. Tirato fuori un vecchio classicone, Surfing USA, perché so che la nostra Alessandra Tedesco, certo, ci vuole parlare di libri, ci vuole parlare di passioni, perché questo è il nostro filo conduttore di questo sabato del villaggio, ma ci vuole parlare anche di surf. Ciao Alessandra. Ciao Marta, non l'avresti mai immaginato da me, no, che non sono una sportiva. Sei una surfista in pectore. Ma figuriamoci, non so stare in piedi neanche su una tavola da surf messa sulla sabbia, quindi figuriamoci. No, però guarda, il libro veramente di cui si sta iniziando a parlare tantissimo in Italia, io me ne sono innamorata pazzamente, si intitola Giorni selvaggi, l'ha scritto l'americano William Finnegan, sottotitolo Una vita sulle onde, pubblicato in Italia dalla casa editrice 66 and a Second. Ora, questo romanzo ha vinto il premio Pulitzer del 2016 per quanto riguarda i memoir, diciamo le autobiografie. Mm-hmm. E infatti l'autore racconta un po' la sua storia. Allora, inizia appunto a praticare surf quando viveva in California, Los Angeles, no? Con la sua famiglia, però poi la sua famiglia viene trasferita alle Hawaii. Stiamo parlando degli anni 60. Sì. E allora racconta questo suo impatto con la società hawaiana e che è con il modo diverso di surfare degli hawaiani, insomma, ragazzino di 15 anni che a scuola viene bullizzato naturalmente, poi ci sono tutte le divisioni anche etniche nelle Hawaii di quel periodo. E lui ha questa passione enorme per il surf, solo con il surf, diciamo, riesce a sentirsi veramente se stesso e inizia ad intrecciare una serie di amicizie. Per le atmosfere, questo libro, nel quale sembra che non accada nulla, invece succede tutto, succede la vita, mi ha ricordato un po' Stoner. Ti ricordi che divenne un bestseller in Italia, anche se era stato scritto negli anni 50 o 60, adesso non ricordo bene. E giusto per farti capire come in questo Giorni selvaggi del Pulitzer Finnegan il surf sia una metafora alla fine della vita, ti leggo proprio la quarta di copertina, che poi spesso racchiude un po' il senso di un romanzo. Chiusi gli occhi. Mi sembrava di sentire su di me tutto il peso dei mondi senza mappe, delle lingue non ancora nate. Ecco quello che stavo cercando, non l'esotismo, ma la comprensione assoluta della realtà così com'è. Un personaggio bellissimo. Che bella frase, devo dire che mi pare un ottimo consiglio di lettura per chi sta cominciando a preparare i libri per le vacanze. Sì, libri per le vacanze, io lo consiglio a uomini e donne, indipendentemente dalla passione per il surf. Io appunto non sono una sportiva, non ho la passione per il surf, ma è un libro scritto benissimo, che riesce a coinvolgere fin dalle prime pagine e diciamo dà questa sensazione della storia del singolo che però ti spiega il senso della vita. E quindi io lo consiglio anche ai ragazzi. Ai ragazzi, diciamo, dai 16 anni in su è un libro sicuramente che può piacere. Giorni selvaggi, ricordatevelo perché è appena uscito, una copertina bellissima, bianca, con un uomo, diciamo, di schiena in azzurro con la tavola da surf, naturalmente. Hai detto che è uno dei libri di cui si comincia a parlare tantissimo, quindi meglio essere già preparati perché sarà sulla bocca di tutti. Un altro libro di cui si parla molto? Se ti dicessi La vedova. Ne ho sentito parlare, in effetti. Alessandra, cos'è? Allora, La vedova è un romanzo, diciamo, è un thriller, è il giallone dell'estate. L'anno scorso c'era La ragazza del treno, quest'anno La vedova. Brava, okay. Ma sai che alcuni giornali l'hanno proprio paragonato alla ragazza del treno come idea di, diciamo, tormentone bestseller giallo dell'estate, certo. In questo caso del 2016. Allora, La vedova è un giallo in Italia che è stato pubblicato da Einaudi e l'ha scritto una signora inglese, Fiona Barton, di 59 anni. Tu dirai, vabbè, che qual è la cosa strana? È il suo primo libro. Ah, non è mai troppo tardi. Tra poco parleremo poi ancora, ve lo anticipo, di un libro in particolare, perché verrà a trovarci un'amica. Anche lei sostiene che non è mai troppo tardi. Quindi non è mai troppo tardi intanto per scrivere un bestseller. Ha scritto a 59 anni il suo primo romanzo. Così è stato venduto in 32 paesi. Un clamoroso successo in Gran Bretagna. Sarà probabilmente uno dei tormentoni, per ritornare alla puntata scorsa dell'estate. E ti dico solo che l'americano Stephen King l'ha definito un libro imperdibile. Io vi dico rapidamente quindi la paura trama. Tanta? In realtà è un thriller psicologico, lavora più di psicologia, non ci sono tante scene pulp, è proprio ragiona tutto di testa. Perché di che cosa parla? C'è una bambina che scompare mentre gioca nel giardino di casa e viene accusato di questo diciamo rapimento un uomo che aveva avuto in passato delle accuse di pedopornografia. La vedova e la moglie di quest'uomo, appunto, che viene accusato. In realtà poi viene rilasciato per insufficienza di prove, però comunque viene ritenuto un mostro da parte di tutti. Quindi il racconto è dal punto di vista di lei, della vedova, che ha accanto quest'uomo che non si capisce bene se è veramente un mostro o no? Ed è qui la parte thriller psicologico che veramente va a scavare nei meandri della nostra mente. Inquietante, quindi direi non per tutti. No. Diciamo per gli appassionati di thriller, insomma, per quelli che non si spaventano della scomparsa, appunto in questo caso la scomparsa di una bambina, c'è la pedopornografia, quindi insomma è un romanzo anche che ha il suo peso, però ragazzi, io ve lo dico, è il thriller dell'estate, La Vedova. Accidenti, dai, parliamo di qualcosa di più light, di più piacevole, di più, oddio, light non mi pare, perché vedo delle immagini altamente caloriche. Hai davanti a te un libro che mi pare veramente molto bello. E beh, peccato che i libri e la radio non si possano vedere, ma adesso lo twittiamo. Lo twittiamo. A proposito di passione, quando tu mi hai lanciato questo titolo, no? Prima abbiamo parlato della passione surf, che era dello scrittore, poi protagonista appunto del memoir Giorni Selvaggi. Io che sono una golosa sono andata a pescare un libro di cucina, ma non uno qualsiasi. Allora, The Bagel Company, l'ha scritto Miriam Sabolla, pubblicato da Guido Tommasi Editore, che secondo me fa i libri di cucina con le foto più belle in assoluto. Le fotografie sono di Giorgio Balzano. Allora, cosa ha fatto Miriam Sabolla sui bagel? Innanzitutto ci ricostruisce un po' la storia di questo, dice innanzitutto che cos'è un bagel? Sì, perché non tutti avranno assaggiato questa specialità. No, dice, è semplicemente un pane dalla forma rotonda con un buco al centro, tipico della tradizione ebraica dell'Europa dell'Est. Poi c'è stato naturalmente tutto un, come dire, un mix, è stato esportato all'estero, e allora lei fa anche un po' di storia, soprattutto di quando sbarca a New York e diventa anche un po' il simbolo dell'alimentazione americana, perché è molto diffuso appunto negli Stati Uniti. Ma oltre ad offrirci, diciamo, questi pezzettini di storia, lei che cosa fa? Ci dà delle ricette, appunto, accompagnate dalle bellissime fotografie. Che belle quelle foto, io ve lo racconto alla radio, sono veramente belle. Mi sta venendo una fame. Con tutti i posti dove il bagel è diffuso. Allora, New York, per esempio, allora una ricetta qualsiasi di New York, Bagel Chicken Club, naturalmente col pollo. Si può fare. Ad Amsterdam invece, vediamo, oddio, con le aringhe, il limone e il burro, vabbè, è olandesi, capisci? In Olanda sì, in Olanda ci sta l'aringa. A Berlino, buono, vabbè, il bagel con la marmellata, e poi ne ho segnato uno che mi piace, ecco, questo è il mio preferito, bagel con mele caramellate e cannella. Preparazione 20 minuti, io sono golosa di dolci. Se vuoi provare a farli, io li assaggio volentieri. Sì. Beh, è anche un bel libro da regalare, mi pare. È un bel libro da regalare, da sfogliare, da guardare, da provare, perché poi per esempio ci sono i bagel a Varsavia, quindi si ritorna nell'Europa dell'Est, poi a Parigi, le ricette parigine, Tel Aviv, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, quindi è un pezzettino di storia della cucina e tante tante ricette, delle foto che fanno venire l'acquolina in bocca. Faccio subito la domanda indiscreta, visto che è un libro importante con delle belle foto, costa tanto? No, stranamente non costa tanto, costa 19,90, quindi diciamo insomma un regalo, 20 euro fattibilissimo, sì. Però ripeto, tutti i libri della Guido Tommasi Editore hanno delle foto stupende, e questo di Miriam Sabolla, The Bagel Company, ragazzi, a me mi fa venire l'acquolina in bocca. Che vi devo dire? Sì, l'acquolina in bocca. Continuiamo con la passione, Alessandra. Abbiamo parlato di surf, abbiamo parlato di cibo, ma d'amore? La passione all'amore. La passione si sente? Vabbè, insomma, Radio 24 sì, speriamo anche altrove. Eh sì, in questo caso giochiamo in casa, perché il libro di cui vi parlo è 20 lezioni d'amore di filosofi e poeti dall'antichità ai giorni nostri, che ha scritto Armando Massarenti, che come sapete è il direttore della Domenica, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, certo, pubblicato da UTET. Allora, lui che cosa ha fatto? Parte dal concetto che, diciamo, l'amore sia un balsamo per le nostre vite, un farmaco potente o un meraviglioso veleno. Ancora oggi è possibile imparare ad avere cura delle nostre passioni grazie alle più belle, illuminanti e insolite lezioni d'amore, appunto, disseminate nelle pagine di filosofi e poeti. Quindi viene citato per esempio il Cantico dei Cantici, l'Arte di amare di Ovidio, i frammenti di un discorso amoroso, insomma, le Confessioni addirittura di Sant'Agostino, insomma, c'è di tutto, preso dalla filosofia, perché insomma Armando Massarenti è un filosofo, per farci comprendere meglio, in maniera anche semplice, il senso delle passioni umane. Beh, direi che con questo possiamo chiudere l'argomento passioni. Basta, la passione si sente, punto. La passione si sente, è provato. Però per chiudere il nostro appuntamento con i libri nel sabato del villaggio abbiamo sempre un consiglio per bambini, ragazzi. Sì, qua proprio interesse privato in atto d'ufficio. Ah. Posso essere, perché lo dico spesso, insomma, io i libri li testo con i bambini che conosco e ho due nipotini gemelli. Certo. E cercavo da tempo un libro che avesse per protagonisti dei gemelli. Ta-da! Trovato? Sì, Il Castoro, che è la casa editrice che pubblica La Schiappa, per intenderci, pubblica questo libro divertentissimo, I Gemelli Terribili, di Yozua, spero di pronunciarlo bene, Douglas. E sono protagonisti naturalmente questi due gemelli che veramente ne combinano di tutti i colori. Adesso vabbè, non scendo nei particolari, però sicuramente è un libro divertente, diciamo a partire anche dai 6 anni in su, se sono i genitori che glielo leggono. E siccome i gemelli sono sempre più frequenti ormai, secondo me un libro che abbia per protagonisti una coppia di gemelli è una cosa geniale, perché i bambini gemelli, eterozigoti o omozigoti, si ritrovano perfettamente. I tuoi nipoti si sono divertiti? Molto. Ecco, allora basta, prova provata. Prova provata, è stato per voi. Alessandra, per chiudere l'appuntamento col cacciatore di libri, come sempre per i mattinieri il sabato alle 6.30 e per tutti gli altri alle 22, oppure su podcast radio24.it sezione Il Cacciatore di Libri. Al prossimo sabato per altri libri per l'estate. Ciao Alessandra. Ciao Marta. Il sabato del villaggio. Tante pagine del nostro sabato del villaggio, abbiamo già parlato di libri, abbiamo già parlato di tecnologia con il nostro Enrico Pagliarini che ci ha mostrato alla radio il passaggio delle frecce tricolori, abbiamo parlato di televisione, abbiamo parlato di calcio. Sono molto contenta dei commenti e dei complimenti che arrivano via messaggi 349-238-6666, sia per gli sms che per i whatsapp. Dicevo, i complimenti e i commenti che arrivano per i nostri conduttori e i nostri inviati, in particolare per Dario Ricci. Sono molto contenta per chi ci scrive che guarderà la partita con un occhio diverso, come ci ha scritto Fabrizio Russo su Twitter. Effettivamente lo sguardo di leggerezza e di gioia che ci ha lasciato il nostro Dario Ricci, mentre le notizie che arrivano dal mondo sono tristi, preoccupanti. Ecco, per le notizie vi do l'appuntamento al giornale radio delle 17. Adesso noi continuiamo a cercare di Così di visitare un po' le nostre passioni, di abbracciare con leggerezza e compassione il nostro sabato pomeriggio. Adesso nel nostro sabato del villaggio è il momento del capitolo dedicato ai consumi. I'm sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Beh, in questo sabato del villaggio dedicato alle passioni stiamo rispolverando anche un po' di classici, perché Maria Luisa Pezzali, che è qui con me, mi ha detto andiamo in barca. Andiamo in barca, Maria Luisa, ciao. Sì, andiamo, usciamo subito, poi con questo sottofondo, Marta, sì. Io sono già proiettata proprio in altri lidi. Buon pomeriggio. Buon ciao pomeriggio. A tutti. Sì, questa subito ci porta in barca, è proprio sì. Un grandissimo classicone. Sì, perché oggi parliamo di una piattaforma che permette di condividere vacanze in barca a vela. Sharing economy, Marta, ne abbiamo parlato tante volte, è uno dei temi più forti anche in essere avere, Airbnb, Uber, BlaBlaCar, Gnammo, tutte quelle piattaforme digitali che permettono appunto di condividere un bene o un servizio, quindi case, vacanze, viaggi in auto, piuttosto che cene. Questa piattaforma, che si chiama Salesquare.com, è italiana e connette skipper che possiedono un una barca con persone che vogliono fare un'esperienza in mare, singoli oppure gruppi, una specie di Uber delle barche a vela, diciamo così. Uber sull'acqua, mi piace. Esatto. È un fenomeno che sta esplodendo, oltre 50.000 utenti registrati sia in Italia che all'estero. Ci facciamo raccontare tutto da Riccardo Boatti, che è il cofondatore di SailSquare. Buon pomeriggio, Riccardo. Ciao Marta, ciao Maria Luisa. Buon pomeriggio. Allora, raccontaci tutto, innanzitutto come è nata questa idea. Allora, io e il mio socio Simone Marini abbiamo fondato SailSquare nel 2013, quando ci siamo un po' accorti dell'enorme potenziale che poteva avere la sharing economy e i nuovi, diciamo, media digitali, se applicati al turismo nautico. Di fatto, prima di SailSquare non esistevano piattaforme che mettessero in contatto skipper e persone che volevano vivere vacanza a contatto con altre persone, con la natura, e fare, diciamo, esperienze turistiche un po' diverse dalle classiche. E invece, appunto, creando una piattaforma all'interno della quale, a seguito di un processo, diciamo, di accreditamento, gli skipper pubblicano le proprie proposte, proprio come su BlaBlaCar e su Airbnb, ad esempio, abbiamo effettivamente, diciamo, creato un nuovo modo per approcciarsi alle vacanze in barca a vela. E questo ha fatto sì che un'esperienza che fino a poco tempo fa era veramente molto di nicchia, dedicata a esperti o persone che avevano un portafoglio abbastanza consistente, potesse allargarsi a veramente un po' a tutti, a seconda sia dei gusti di vacanze che uno desiderava fare, ma anche proprio alle possibilità economiche. Dacci un'idea di destinazione e di costi. Allora, le destinazioni, come su tutte le piattaforme di sharing economy, sono veramente tantissime e molto varie, perché le proposte sono create appunto dagli utenti. Quindi tieni presente che al momento, soprattutto nella stagione estiva, il focus è principalmente il Mediterraneo, che è coperto in maniera molto capillare, quindi tutta l'Italia, la Grecia, la Croazia, le Baleari, la Corsica, la Francia, ma sicuramente anche tante mete esotiche, che alcune sono adatte alla regione, al periodo estivo, altre invece sono tipicamente invernali, quindi Caraibi, le Figi, la Thailandia e altri favolosi posti in giro per i mari del mondo. Immagino che i prezzi varino a seconda delle destinazioni. I prezzi assolutamente variano in base alle destinazioni, ma anche in base alla tipologia di vacanza che si va a fare. SailSquare ha come scopo quello di essere fortemente accessibile, quindi di rivolgersi a un nuovo pubblico. Il 60% delle persone che salgono a bordo con SailSquare, da soli o in piccoli gruppi, sono alla prima esperienza in barca a vela. Quindi questo è un elemento per noi fondamentale, di grande soddisfazione. Sono anche accessibili dal punto di vista economico, tanto per dare due dati sintetici: ad agosto è possibile passare una settimana a Ferragosto, la prima, la seconda settimana, la terza settimana d'agosto, partendo da proposte che vanno da 350 a 400 euro a settimana, fino a proposte che possono arrivare agli 800-1000 euro alla settimana. Comunque, in assoluto, tutti i prezzi tendenzialmente più bassi rispetto al mercato, diciamo, del turismo nautico, del 20-30%, e in assoluto molto simili o spesso più bassi rispetto a proposte turistiche analoghe di vacanza al mare, diciamo. Regola base della sharing economy, immagino, Riccardo, un sistema di feedback e recensioni. È assolutamente così, per noi è addirittura molto più importante, perché non c'è solo da verificare appunto la sicurezza, la qualità della barca, ma di far sì che effettivamente ci siano dei meccanismi virtuosi che permettono una relazione di valore anche tra i membri dell'equipaggio e lo skipper. Quindi all'interno di SailSquare, a seguito di ogni vacanze effettuate, solo per i membri censiti all'interno dell'equipaggio, è possibile lasciare un feedback di tutti gli altri membri e dello skipper. Devo dire che la soddisfazione degli utenti è veramente molto elevata, infatti la media, diciamo, delle stelline presenti all'interno dei feedback è 4.7 su 5 punti massimi, e molto spesso ti rendi conto come la valutazione non sia semplicemente oggettiva e legata alla conformità, diciamo, della vacanza rispetto a quanto proposto, ma è molto spostata sull'aspetto anche umano, perché la vacanza in barca a vela è sicuramente un ottimo modo per socializzare, per conoscere nuove persone e instaurare grandi nuove amicizie, cosa che capita con una frequenza molto alta. Bello. Il falso mito del vacanza in barca vera si litiga è veramente un falso mito, soprattutto tra persone che non si conoscono, è un ottimo strumento in realtà per fare amicizie più che per litigare. Mi piace molto, grazie a Riccardo Boatti, cofondatore di Sail Square. Intanto io stavo curiosando, effettivamente destinazioni diversissime, prezzi diversissimi, proposte molto diverse, è stata proprio una bella idea. Ovunque. Ciao Riccardo. Benissimo, grazie mille Marta, Maria Luisa, a presto. Che bello, che voglia di partire, di andare in barca, ma dobbiamo ancora rimanere qui. Meno male che abbiamo le chicche di Cristina Lazzati, ce l'abbiamo in collegamento. Ciao Cristina. Buon pomeriggio, eccoci qui, parliamo di vacanze. Ecco, se vuoi ti portiamo in barca con noi, però prima devi darci le tue chicche del sabato pomeriggio. Ecco, le mie chicche riguardano la terraferma, perché io mi sono deciso una vacanza più classica e quindi e magari con mete italiane, ho dato un'occhiata a quello che ci costeranno queste vacanze italiane. Allora, secondo The Fork, che è questo servizio di prenotazione online dei ristoranti, ha fatto una ricerchina su dove si spende di più e dove si spende di meno per andare in vacanza mangiando, cioè da cena e pranzi. Allora, Sardegna, signori miei, è carissima, è la più cara d'Italia e infatti The Fork dice che comunque la media si va sui 30,38, ovviamente la media del pollo, quindi probabilmente in alcuni posti spenderanno 150 euro, in altri 15 euro, per cui i sardi non ce l'abbiano con me, sappiamo benissimo così, però sicuramente in media sono i più cari, mentre dove si spende meno per pranzare e cenare è la Calabria, dove stiamo su intorno ai 24 euro. Seguono, diciamo, in più o meno in linea sui 25 il Molise, che comunque è la Puglia, che è leggermente anche questa un po' sotto i 25 euro. Detto questo, uno dice vado in vacanza, ci devo mangiare, ma normalmente noi italiani abbiamo le spiagge attrezzate, no? Quindi certo, bisogna prendere un bellone lettino, per cui famiglia, due bambini, la media ancora una volta la Sardegna spicca per un costo medio, in questo caso li ha calcolati ad hoc, che è l'associazione dei consumatori, si arriva fino ai 78 euro in Sardegna per una giornata al mare con lettino e ombrellone. Costa molto meno il Molise e anche la Campania, dove siamo sui 48 euro a giornata. Il Veneto invece rimane sui 64 e per stare sempre sui classici della vacanza la Liguria e la Toscana stanno rispettivamente a 73 e 71 euro. Quindi di fatto Sardegna, Liguria e Toscana prendono i primi tre posti nella classifica del mettetevi da parte dei soldini, perché quelli costano un po' di più. Ovviamente sì, la logica è anche il fatto che si tratta, soprattutto per la Liguria e la Sardegna, anche di spiagge più piccole e quindi la difficoltà poi c'è, si paga il parcheggio, in alcuni posti si paga la doccia, in altri si pagano tutta una serie di servizi aggiuntivi, per cui poi alla fine la somma che ha fatto ad hoc è questa qui. Allora, il consiglio ovviamente è di guardare, ci sono dei siti ormai che ci danno l'elenco delle spiagge con i servizi e con i costi e guardate quello a cui non potete rinunciare o non volete rinunciare e quello invece cui tenete in modo particolare, per cui se l'ombrellone è essenziale prendete l'ombrellone che di solito è il costo più alto, altrimenti lettino e ingresso abbassano notevolmente i costi e poi, come dire, ci sono dei simpatici cestini da picnic, moltissimi anche classici supermercati della GDO si stanno attrezzando per mettere in tutto il reparto dei freschi tutta una serie di suggerimenti, opzioni per farsi il proprio cestino da picnic, per cui la vacanza risparmiosa potrebbe essere spiaggia libera, picnic e ombrellone sotto braccio. Carino, anche abbastanza romantico, quindi scegliamo le nostre priorità e seguiamo quelle. Grazie a Cristina Lazzati, buon fine settimana. Grazie a voi, buon fine settimana a tutti. E buon fine settimana anche a Maria Luisa, l'appuntamento con Essere Avere. Domani alle 22 come sempre. Ciao Maria Luisa. Tutti. Il sabato del villaggio. E ancora grazie per i messaggi al 349-238-6666, sms e whatsapp. Grazie a Michelle, grazie a Ignazio da Napoli, Ignazio e i suoi fratelli. E a Maria Laura da Roma, che ci chiede di segnalare a Radio 24, a chiedere se Radio 24 può offrire spazio ai bambini, perché dice la Rai in TV, visto che abbiamo parlato dei palinsesti, Rai ha i programmi per i bambini, ma alla radio, Radio 24 può fare dei programmi per i bambini? Io giro la tua richiesta. Io non posso fare nulla, ma giro la tua richiesta e il tuo consiglio, Maria Laura. Adesso io sono molto molto molto contenta, perché in studio con me c'è una mia amica per parlare di passione, una mia amica, e la voglio introdurre e presentare così. Canto in continuazione questa canzone di Alan Sorrenti, che fa un po' da colonna sonora a L'amore a due passi. Io sono molto molto contenta che ci sia venuta a trovare al Sabato del Villaggio una mia amica, che quindi adesso può diventare anche vostra amica, Catena Fiorella. Ciao Catena. Io resterò se vuoi. Eravamo qua che ballavamo tutte ma e due. Quando è che ci cantano questa canzone, Marta? Guarda, quando? Per speranze perdute ormai. Ma poi dimmi che hai bisogno di me, capisci? Cioè, quando poi un uomo ti dice sempre mia, anche quando vado sì, via. Cioè, io voglio qui adesso Alan Sorrenti, adesso. Lo facciamo materializzare, Alan. No, però ho detto una cosa sbagliata, ho detto ho perso la speranza. Sbagliato, no, perché come appunto insegna l'amore a due passi? Non è che l'amore arriva proprio subito, magari l'amore arriva dopo, perché io voglio svelare poco del romanzo perché è da scoprire, però è la storia di due personaggi affascinantissimi che sono Orlando Giglio e Marilena Moretti, non giovanissimi, vicini di casa, che si conoscono da tanti anni, però chissà. Si conoscono solo per un buongiorno e buonasera, come tutti i condomini di solito del palazzo. Cioè non si va mai oltre, che poi sai, il condominio è anche una metafora della vita. Abbiamo l'amore a due passi, l'amicizia a due passi, e delle persone anche belle dentro, fantastiche, meravigliose, però abbiamo dato un'immagine, abbiamo deciso che quel volto corrisponderà poi magari, che ne so, corrisponde a uno antipatico. Ok, io ho deciso che il signor Rossi è uno antipatico, non voglio andare oltre. E chissà cosa ci perdiamo. Quanto ci piace raccontare e sentir raccontare storie, Catena. Però voglio chiederti come ti è venuto in mente di raccontare una storia d'amore tra due non giovanissimi, perché è una generazione lontana dalla nostra. Esattamente, 2 anni fa. 8 agosto, me lo ricordo perché era 2 giorni prima del mio compleanno, quindi 8 agosto sono a Roma, ancora dovevo partire per andare in Sicilia in vacanza, dove vado tutti gli anni, leto gli anni, e vedo i due vicini di casa, appunto, un uomo e una donna che abitano in piani diversi, quindi uno all'attico, uno in un altro piano, e vedo loro che stanno ritirando la posta. Li guardo e li vedo tristi. Di quella tristezza che nasce di solito quando subisci qualcosa che non vuoi, che non vorresti che capitasse nella tua vita, ovvero la solitudine. Ho detto, vabbè, adesso ve la regalo io una vita. Ah. Come Sliding Doors, no? Certo. Adesso vi regalo una nuova esistenza. Ci sono tutti in questo libro, che però io ti confesso, Catena, mi sono letto immaginandomelo quasi un film. Si può fare. E ti dirò di più, noi siamo sempre per gli annunci, le mail, noi andiamo sempre, quando facciamo gli appelli, io sono di quel gruppo di persone che cerca sempre nella solidarietà e nel fare gruppo le cose, non nelle vie sotterranee, allora, amici degli amici. una volta Catena, produttori, fatevi avanti e fatevi avanti. Ecco, allora Catena è una che fa anche gli esperimenti. Sì. Una volta ha detto: ma perché non facciamo un gruppo di WhatsApp? Sì. Che delirio è successo, quanti eravamo. Ma perché io credo in queste possibilità. Cioè, tu pensa adesso, e c'è a casa un produttore, no? Che magari che sta ascoltando Radio 24. Gli attori sono pronti. Perché... allora dai, mettiamo. Beh, Lina Sastri mi ha detto sì. Ambra Angiolini mi ha detto sì. Come figlia, perfetto. Perché questi due signori hanno anche dei figli. Figli, certo. Allora noi, siccome crediamo, e siccome tu poi sei una che di cinema, com'è, ce la sa, si dice in Sicilia. Se un altro se la studia. E ce la sai del di cinema, fallo pure tu, così l'annuncio diventa proprio, come dire, anche credibile. E diciamo, mezzo produttore, nel senso c'è già una persona a Roma che. E lui dice: se io trovo anche altre diciamo forme di anche fantastico. Delle coproduzioni, perché no, questo cinema, questo film potrebbe essere di tutti quelli che in questo momento ascoltano, perché guarda, io immagino già Giancarlo Giannini per esempio con Lina Sastri. Tu chi immagineresti invece? Allora guarda, io mi sono immaginata un po' Remo Girone. Ammazza, vero? Lei, Licia Maglietti. Ah vabbè, detto poco, ecco. Gemia, belle queste no, due, sì, loro, lo, mamma sì, mia, sì, che sì. Poi sì, tra l'altro loro, Licia dai, è anche una donna, io la chiamo Licia come se fosse certo, venuta a scuola con me, vabbè. Però Licia, e già la vedo, e la Lina sono due che proprio, capito, hanno questa un po' ritrosia, un po' timidezza, un po' certo. Che è bellissima, niente, un film è pronto, un film è pronto. E poi senti, siamo stanchi, posso fare un altro appello? Basta storie d'amore tra 15enni, massimo 18enni. Cioè, le librerie sono prese d'assalto. Anche un motivo per cui, uno dei motivi per cui ho scritto questo romanzo è perché a un certo punto io ho detto: scusate, ma gli abitanti del mondo, quelli che si innamorano, quelli che amano, che vivono storie appassionate, cioè tu pensa che io ho fatto delle scene d'amore in questo romanzo, mia mamma dice: oddio, è romantico, è troppo bello, fa venire la voglia di innamorarsi. Cari, fammi salutare la tua mamma che è tanto carina, ci ascolta sempre, salutiamo mamma Sara che ci ascolta sempre Radio 24. Queste scene d'amore che sono girate tra Gallipoli, Acaia, Lecce, tutti i paesi più belli del Salento, ce ne sono Otranto, ma ce ne sono tanti, San Cataldo, dove avviene la scena. Cioè, perché voi dovete mettervi in testa una cosa: smettetela con il tabù dell'amore anche fisico, che deve avvenire solo tra 15, 18, 20 anni. L'amore fisico tra due persone che hanno passato i 50 può essere straordinario, perché la nostra mente è forse il, come dire, il concentrato più erotico che può esistere al mondo. La passione enorme, ecco, di Catena Fiorello. Catena, grazie, grazie Marta, per essere stata qui. Grazie io agli ti ascoltatori. Aspetto, ti aspetto di nuovo, perché sai, quando tu vieni da me in radio sono proprio felice. E allora balleremo la pizzica. La pizzica, la pizzica. Grazie Catena, alla prossima. Ricordati, l'amore a due passi, girati che può succedere di tutto. Non bussa, l'amore a due passi. Giunti editore Catena Fiorello. Grazie. Ciao. Catena. Non so se son pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi alla guai pequeño, non mi fumo canne, sono anche stemio, io non faccio brutto, ma col trattore in tangenziale andiamo a comandare, scatto foto col mio cane, andiamo a comandare, chi ci abbatte nel locale, andiamo a comandare, sporcio acqua minerale, andiamo a comando. Ormai l'abbiamo anticipato sui social, in regia stanno ballando, stanno facendo la mossetta di andiamo a comandare sia Christian Goldoni che Andrea Roccabella con la mossetta di andiamo a comandare. L'abbiamo anticipato sui social, l'abbiamo postato su Instagram, su Twitter. Il fenomeno dell'estate, Fabio Rovazzi, questa è la canzone dell'estate, lo sappiamo tutti, andiamo a comandare, sarà con noi nella terza ora del Sabato del Villaggio, che è poi l'ora di RadioTube, non subito, prima c'è il giornale radio delle 17, parleremo molto in RadioTube anche degli europei, ora spazio alle notizie, ce n'è bisogno più che mai in questa giornata difficile, a più tardi.